Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno care amiche e cari amici, oggi ci accoglie una delle figure più famose della letteratura dell'Ottocento, dell'Ottocento inglese, ma in realtà della letteratura universale, cioè Lewis Carroll, l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, il film che tra l'altro da poco abbiamo visto sugli schermi. L'autore fu anche un pioniere della fotografia. La fotografia fu un'arte alla quale Carroll si era accostato già nel 1855, quando aveva acquistato la sua prima macchina fotografica. Allora si chiamava ancora Charles Dodgson e non aveva ancora scritto Alice, che firmò appunto nel 1865 col nome di Carroll. Nella sua carriera di fotografo, Carroll ci ha lasciato delle foto molto discusse, in particolare per i soggetti. Sono quasi sempre delle ragazzine, alcune anche nude, che hanno alimentato i peggiori sospetti sul fotografo, tanto da suscitare il quesito se Carroll fosse davvero un pedofilo. E su questo tema indaga Simonetta Agnello Hornby, che è una scrittrice sicula londinese, avvocato di professione, esperta in particolare del settore del diritto dei minori, che ha scritto Camera Oscura per Schirà, 128 pagine, 15 euro. L'autrice raccoglie qui gli elementi, ci mostra anche alcune fotografie, ci presenta alcuni brani di lettere di Dodgson Carroll e lascia poi che il lettore tragga le sue conclusioni in base agli elementi che ha raccolto nel libro sulla natura dell'atteggiamento dello scrittore. Ma sentiamo su questo l'autrice. Buongiorno a Simonetta Agnello Hornby. Buongiorno a lei. Nel suo libro lei affronta questo personaggio d'avvocato dei minori per porre la questione se Dodgson fosse, come scrive lei stessa, un esteta, un artista, un pedofilo, e poi invita i lettori a trarre le loro conclusioni. Ma lei si sarà fatto un'idea, secondo lei Dodgson a quale categoria apparteneva? In realtà non apparteneva a nessuna di queste categorie. Il pedofilo è una persona che è esclusivamente attratto dai bambini, questo non era il caso di Dodgson, per cui io devo concludere che lui era un eterosessuale normale con un grande appetito e che aveva anche questo, chiamiamolo penchant, questa depravazione di trarre piacere dal fotografare e disegnare bambine nude. Che poi facesse altro con queste bambine non lo so, penso di no, con le figlie dei suoi amici, di gente del suo ambiente, dei professori di Oxford. Con altre bambine, con le bambine che a pagamento si facevano le modelle per lui nella tarda età, con altre bambine, figlie di gente povera che lui aiutava notevolmente, non ne ho idea. So solo che sapeva di far male, perché non fotografò mai le figlie delle sorelle, delle cognate, dei parenti. E infatti una ragazza di queste, una figlia di amici, a un certo punto nota lo sguardo triste delle bambine. Non c'è che fare, quando uno guarda queste fotografie anche da esterno si vedono certe fotografie con occhi tristi, proprio tristi. A un certo punto incontriamo la Alice che avrebbe ispirato il libro che diede poi l'immortalità a Carroll, chiamiamolo col nome di Plume. Che ruolo ebbe, se lo ebbe, questa infatuazione di Carroll sul romanzo che poi scrisse dandole il titolo appunto di Alice? Mi ha aiutato molto un libro di Catherine Leach, che è stato pubblicato anche in Italia, e in cui parla della eterosessualità di Dodgson, dell'amore di Dodgson per donne adulte, e accenna vagamente alla mamma di Alice. Quello che sappiamo è che Dodgson era un giovane che voleva godersi la vita. A Christchurch, dove lui lavorava, arrivò Little, era il nuovo decano, il nuovo preside della facoltà, con una moglie giovanissima, bella, scura di capelli, attraente, che dava al marito un figlio l'anno, tra l'altro. E Dodgson diventò un po' il cicisbeo di questa signora, o così si pensa. Cioè era quello che stava a casa loro, che l'aiutava coi bambini, gli avevano permesso perfino di avere una camera oscura lì. E poi a un certo punto, tutto ad un tratto, questa amicizia finì e lui fu buttato fuori casa, dopo il famoso 4 luglio del 67, quando lui si dice abbia avuto la richiesta di Alice di scrivere la bella storia che l'aveva raccontato e prima che si pubblicasse il libro. E da allora Dodson praticamente non fu persona grata a casa di questi, però questa Alice dice che anni dopo, ma tanti anni dopo, la madre di Alice si incontrò con lui nel paese in cui vivevano le sorelle di Dodson, dove lui la manteneva. Lui le aveva dato dei particolari di case da comprare perché il marito andava in pensione. Dice ancora che c'è stata una fotografia della casa di vacanza dei Little in cui c'era lui di nascosto. Sappiamo anche che la madre chiese ad Alice di chiedere a Dodson di far da padrina un suo figlio e Dodson rifiutò. Per cui che Dodson non fosse innamorato di Alice a me sembra chiaro e sarà stata una delle tante bambine. E che invece la madre abbia mantenuto un rapporto con quest'uomo negli anni sembra altrettanto chiaro, chissà. Senta, a un certo punto nelle ultime pagine Dodson dice, ammette, vivere è una sofferenza. Ecco, lui stesso fu traumatizzato da questo rapporto così contorto, se non morboso, con le bambine. Ma in genere chi abusa i bambini è stato abusato, il che non rende minore la colpa e la importanza di quello che hanno fatto, il danno enorme. Dodson era il primo maschio di una famiglia di 11 con tante sorelle, un padre quasi crudele in certe forme. Però dobbiamo ricordare che i padri vittoriani erano spesso crudeli nel voler educare. Che non fosse un essere normale è chiaro, per esempio non mangiava con le sorelle e stava nella camera da pranzo a girare su e giù mentre quelle mangiavano, è un comportamento bizzarro, poteva essere crudele con gli amici, anche con le bambine che amava se portavano un colore che a lui non piacesse, era un egoista e un godereccio. Senta, alla luce di questo ritratto abbastanza impietoso che lei ne fa, come leggere allora Alice nel Paese delle Meraviglie? Come un bellissimo romanzo, come rileggo tanti libri scritti da gente che nella vita personale è perversa, come leggo, per dire una cosa qualunque parlando di noi, Pascoli, di cui si dice che avesse un rapporto incestuoso con la sorella, come leggo le poesie bellissime di Penna, diciamo che purtroppo c'è gente che compie cose orribili con gli altri o in famiglia, ma poi fa delle opere d'arte. Non li redime, non può redimere nulla, però bisogna accettare la natura umana per quello che è e amare il prossimo per quello che è. Bene, grazie a Simonetta Agnello Horby, autrice di Camera Oscura. Grazie a lei, buon pomeriggio. Le ultime edizioni di Alice nel Paese delle Meraviglie sono quella di Principi e Principi, cioè 15 euro, quella di Einaudi per i ragazzi 6,90 euro, quello di Mursia 12 euro, quello di BC Dalai Editore 6,90 euro, quello per ragazzi con i pop-up, cioè con le figure che vengono fuori 19,90 euro, poi c'è un'edizione normale, diciamo così, di 6,90 euro, poi c'è un'edizione Salani a 7 euro e infine l'edizione con Alice nel Paese delle Meraviglie congiunta ad Alice attraverso lo specchio nelle versioni integrali, quella di Rizzoli che costa 19,50 euro e quella di Newton Compton che costa 6 euro. A proposito di fotografie vi segnalo il libro Laboratorio Italia, la fotografia nell'arte contemporanea, curato da Marinella Paderni, è pubblicato da Giovane Levi, 38 euro. Qui siamo naturalmente lontanissimi dalle foto di Carroll e con questo libro si prosegue un viaggio avviato in un precedente volume nella foto italiana e qui abbiamo le immagini degli artisti della seconda metà degli anni 90 in poi. La curatrice illustra in particolare il nuovo ruolo che la fotografia ha assicurato in quella che chiamiamo appunto la società dell'immagine. È un ruolo che però pone anche un nuovo significato alla luce delle nuove tecnologie relativo al concetto di memoria. Secondo l'autrice, infatti, la dimensione del virtuale ha modificato la dinamica del ricordo e questo incide molto anche sul modo in cui gli artisti si accostano alla fotografia. E qui vediamo tante foto di tanti autori che ci permettono non di concludere che esista, come dice la curatrice, una scuola italiana della fotografia, ma di raccogliere gli elementi che fanno da traccia alle tante opere, tanti artisti che qui vengono presentati. Ma torniamo alla Gran Bretagna con un altro famoso scrittore, questo del Settecento, Alexander Pope, di cui torna uno dei capolavori nell'edizione di Adelphi, Il ratto del ricciolo. C'è anche il testo originale, il libro è curato da Alessandro Gallenzi e ha le storiche immagini di Aubrey Beardsley, 170 pagine, 18 euro. Questo è un poemetto satirico ispirato al taglio clandestino di un ricciolo che fece un gentiluomo suscitando le ire della famiglia della ragazza rapinata. un clima che portò a un forte dissapore fra le due famiglie, al punto da indurre poi a chiedere al grande poeta Pop di fare un poemetto per cercare di mettere pace. Pop lo fa, lo scrive, questo poemetto è un grande successo, effettivamente l'opera è deliziosa ed esilarante e illustra un episodio incredibile, per così dire, nell'eterna guerra dei sessi. Il successo è tale che il libro suscita anche molte polemiche. Allora Pop nel 1715 scrive una specie di difesa del poema che aveva composto e che viene tradotto in questo libro per la prima volta in Italia. Si intitola Per afferrare il ricciolo. E questo libello dà occasione al poeta, che era un cattolico, di mettere alla berlina le persecuzioni che allora in Gran Bretagna subivano i papisti, come li chiamavano, e di sferrare, come scrive la curatrice, un attacco contro ogni forma di critica miope e tendenziosa. Dopo il 700 e l'800, uno scrittore inglese a cavallo del 900, anch'egli molto espressivo dell'Inghilterra dei suoi tempi, che è Rudyard Kipling, che era nato in India, come ricorderete, di cui si pubblica Qualcosa di me. Lo presenta Barbes Classici, 234 pagine, 8 euro, ed è curato da Marta Russa. Questa è un'autobiografia scritta poco prima della morte, che avvenne nel 1936, di questo scrittore, anzi uscì postuma con una cura che pare sia stata particolarmente incisiva della moglie. È un libro molto appassionante fin dalle prime parole. Kipling infatti apre il libro scrivendo: se ripenso al passato, adesso che ho 70 anni, mi sembra che ogni carta della mia vita lavorativa mi sia stata distribuita in modo tale da non poter fare altro che giocarla così come veniva. Quindi, attribuendo tutta la buona sorte ad Allah, il dispensatore degli eventi, comincio. E da qui poi narra una vita che si intreccia, come ricorderete tutti, con la vita dell'impero, e quindi ci dà un quadro della società inglese del suo tempo, senza dimenticare e trascurare particolari anche gustosi sul modo in cui lavorava. Per esempio ci dà tutti i particolari sui pennini e sull'inchiostro che Kipling utilizzava. E infine, a proposito di Inghilterra, vi presento un volume che conclude l'opera di Beda, il monaco medievale, autore della più bella opera di storia del Medioevo, La storia degli inglesi. Questo appunto è il secondo volume, che viene pubblicato dalla Fondazione Lorenzo Valle da Mondadori, è curata da Michael Lepage e tradotto da Paolo Chiesa, 760 pagine. Anche qui abbiamo il testo latino a fronte di un'opera che, ripeto, è fondamentale per capire la civiltà del Medioevo e soprattutto per accostarsi a un autore, a un pensatore che affascinò anche Dante e che voleva rafforzare il legame tra la sua isola, il cristianesimo e Roma. Infatti gli anni che prende in considerazione Beda sono quelli che arrivano al 731. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parliamo adesso di un tema molto diverso da quello che abbiamo affrontato prima, e cioè le grandi trasformazioni che stanno avvenendo nella società, e sono quelle trasformazioni che poi riguardano la vita di ciascuno, ma che in primo luogo sono proprio determinate dal nostro cambiamento, dal modo diverso in cui noi, per esempio, partecipiamo al grande rito collettivo dei consumi. E ricordo un libro per ricordare anche un grande studioso italiano che è scomparso esattamente un mese fa, cioè Giampaolo Fabris, che era stato anche ospite di questa trasmissione, di cui è stato appena pubblicato La società post crescita, consumi e stile di vita, pubblicato da Egea, 422 pagine, 26,50 euro. Gli studi del sociologo Fabris sono stati fondamentali per capire la trasformazione della società, ma soprattutto i comportamenti del consumatore, i cambiamenti dei suoi stili di vita, del suo modo di acquistare, di consumare, di collocarsi nella società. Abbiamo vissuto per decenni nel mito della crescita e dello sviluppo, salvo svegliarci all'improvviso come da una sbornia. Ci siamo accorti che la sostenibilità economica, finanziaria, ambientale, secondo l'autore, anche di questi consumi erano messi in discussione. Questo risveglio ha certamente cambiato e sta cambiando ancora la testa della gente, la testa di tutti noi. E se non è caso di enfatizzare, dopo la crescita degli anni passati e il mito della crescita, un altro mito, quello della decrescita, certamente, dice Fabris, si può parlare di post-crescita, cioè di un tipo di crescita diversa che coniughi la compatibilità ambientale con quella psicologica e sociale. E di questo parla questo libro, affrontando le ragioni della crisi, che ha messo a dura prova certezze che sembravano inossidabili. Il consumo, dopo questa crisi, è già cambiata, come dimostrano il successo di fenomeni quali i farmer market, market, gli orti in città, lo sviluppo del biologico, l'ecoturismo. E alla figura del consumatore, secondo Fabris, si sostituisce quella del consumatore, cioè, come lo definisce lui, un sovrano illuminato, diritti ma anche responsabilità e doveri, del consumautore, cioè che mette in luce la capacità creativa del consumatore, e infine del consumatore, cioè quello che è capace di recuperare il valore della socialità che si può collegare al consumo. Cambiano le città, si affermano nuovi valori. Si è accorto di tutto questo l'impresa? Il marketing tradizionale funziona ancora? Fabris su questo ha qualche dubbio, ha dubbi del fatto che le imprese abbiano capito che cosa sta succedendo, o almeno tutte le imprese, e propone un nuovo modello di marketing che lui chiama il marketing mediterraneo, cioè diverso dall'American Way of Life, che prende spunto da un mare che divide ma unisce al tempo stesso tante civiltà, tanti paesi diversi. Leggo dal suo libro: una grande sintesi multiculturale. Anche realtà e metafora questo mare mediterraneo per un futuro policentrico di mediazione, di incrocio, di contaminazione, non di etnocentrismo o di conflitto. Come avete sentito, si tratta di suggestioni di grande attualità che superano di molto i limiti della visione tecnicista del marketing come scienza semplicemente per fare comprare di più. E con queste pagine Fabris si congeda confermando il ruolo che ne fa uno dei pensatori certamente più originali ma anche più lucidi della sua generazione. Nel libro di Fabris si fa riferimento, a proposito del Mediterraneo, alle tesi di un sociologo italiano, Franco Cassano, che è autore di un'analisi breve ma particolarmente originale sul Mezzogiorno, che vi propongo. Si intitola Tre modi di vedere il Sud, è pubblicato dal Mulino, 108 pagine, 10 euro. La questione meridionale, dice l'autore, è vecchia come l'Italia ed è ormai legata a un pregiudizio fatale. Scrive infatti Cassano: il sud italiano è una terra perduta nella quale sembra inutile battersi. Finita la stagione dell'intervento straordinario, siamo ora all'eclisse della questione meridionale, come la chiama Cassano. Viene messa in discussione, scrive, non solo l'efficacia dell'intervento straordinario, ma la sua stessa legittimità. Naturalmente per Cassano non bisogna abbandonare il Sud, ma riconoscere che ci sono tanti Sud, tante situazioni diverse, ed elaborare politiche che siano adatte ad affrontare queste diversità. Ci sono naturalmente molte difficoltà a elaborare queste diverse politiche, anche per la durezza della condizione periferica e per la difficoltà a definire uno scenario più grande e impegnativo, come lo chiama Cassano. Ma questo sforzo va effettuato a costo altrimenti di trasformare l'Italia, scrive, in un condominio sempre più gretto e litigioso. E allora, dice Cassano, giochiamo d'attacco e collochiamo il Mezzogiorno come fulcro della questione, appunto, mediterranea. Una brillante descrizione di tanti cambiamenti in atto collocati in una sorta di dizionario è il libro di Walter Mariotti, che è un giornalista del Sole 24 Ore ed è direttore del mensile Il libro si intitola Un mondo alla rovescia, alfabeta del postcapitalismo, è pubblicato dal Sole 24 Ore, 230 pagine, 19 euro. Dalla A di America alla U di Universa Universis, un viaggio anch'esso nella situazione nuova creata dalla crisi. Scrive Mariotti che siamo entrati in un'era davvero nuova, dove il rapporto tra persone e cose è radicalmente cambiato. E Mariotti esamina le varie forme di questo cambiamento, che dal punto di vista dei consumi, per esempio, ha creato un post-capitalismo quotidiano nel quale, cito dal suo libro, non solo il superfluo costa meno del necessario, ma, come ha notato Giulio Tremonti, anche dell'essenziale. Possiamo andare a Parigi con 20 euro, ma per fare la spesa nel supermercato sotto casa ne servono 40. E questo quindi un mondo frammentato che l'autore esamina in tante sue sfaccettature, che ci permettono di riflettere su queste trasformazioni di cui noi stessi siamo più o meno inconsapevolmente i protagonisti. Sentiamo dal libro di Mariotti la voce chimerica che fotografa bene uno di questi cambiamenti che sta avendo delle conseguenze epocali sul nostro mondo. Non è il trionfo postumo di Marx su Adam Smith, né del comunismo sul capitalismo dopo 20 anni di propaganda opposta, dalla caduta del muro di Berlino al credit crunch impazzito, però il paradosso del capitalismo di Stato, la Cina, che salva lo Stato dal capitalismo, gli Stati Uniti, supera e si vendica di qualunque categoria novecentesca, portando diritti al cuore del grande tema del XXI secolo. Nessuno dei due grandi modelli economici, statali e culturali che hanno lacerato il Novecento ha prevalso, ma dal loro scontro sono nati mostri ibridi come Chimerica, Cindia e forse Eurussia. Le profezie di Engels e di Reagan, dunque, erano equivalenti. Nessuna rivoluzione proletaria può abbattere il capitalismo, che però implode senza il rispetto di regole e persone che non sono concetti astratti, ma grumi di desideri, aspettative, progetti di vita da realizzare in un arco di tempo che né il PIL né la trimestrale possono misurare. Ultimo resta il consumo. Chimerica significa essenzialmente che la Cina consuma meno di quanto produce, mentre l'America più di quanto produce. Una buona sintesi per capire cosa accadrà domani. Abbiamo parlato di marketing e delle esigenze di nuove forme di comunicazione. Segnalo allora una storia della pubblicità di Mark Tangate, Gli uomini e le idee che hanno cambiato il mondo. È tradotto da Marco Bolchi, curato da Michelangelo Coviello ed è pubblicato da Franco Angeli, 330 pagine, 39 euro. Qui troviamo la storia della pubblicità a 360 gradi, dagli Stati Uniti alla Cina, dall'antica Pompei a oggi, passando anche per l'Italia. Si parla infatti in particolare di Armando Testa, che seppe sfruttare bene quello straordinario fenomeno che ha annunciato questo titolo, cioè Carosello, Emanuele Pirella, il grande saggio della pubblicità, anche egli scomparso da poco, e Oliviero Toscani, autore, dice Tangate, dello stock advertising, e ora approdato a una confortante normalità. Non mancano i geni quindi nella tradizione della pubblicità italiana, ma conclude l'autore che a suo parere il nostro paese non è più una fonte di lavori creativi all'avanguardia. Uno straordinario caso di successo nell'ambito del marketing e della pubblicità è la storia di un marchio che è cresciuto insieme a noi, come scrive l'autrice di questo libro, che si intitola Dash. L'autrice è Laura Minestroni, che è professoressa di sociologia a Roma, è pubblicato ancora da Angeli, 260 pagine, 48 euro. Questo di Dash è un piccolo grande mito della società italiana e l'autrice ne spiega le ragioni. Dash è vicino alla gente, scrive, al sentire comune, alle pratiche sociali, insomma è la nostra storia, può raccontare molto di più di quanto si creda sul nostro mondo e sui nostri stili di vita. E qui racconta appunto la storia di questo marchio, con le immagini delle campagne pubblicitarie sulla stampa e in televisione che tutti noi ci ricorderemo, immagini che accompagnano la trasformazione della società italiana, ma anche illustrano una persistenza di comportamenti e di pregiudizi anche che condizionano il successo delle campagne di marketing. E a questo punto... Il confettino. Avendo parlato di Mediterraneo, vi segnalo il libro Fiabe a tempo tra mercanti e sultani d'Oriente. Sono 8 storie tratte dalle Mille e una notte, riscritte da Sofia Gallo e illustrate da Tommaso D'Incalci. Sono pubblicate da San Paolo, 142 pagine, 18 euro. Alcune delle storie più famose troviamo qui, tra cui quella di Aladino, di Sinbad il marinaio e di Alibaba, che ci fanno accostare a questo capolavoro assoluto in letture scandite anche dalla loro durata, per cui troviamo storie che durano 3 o 12 minuti, così che il papà e la mamma sapranno di quanto tempo avranno bisogno per far addormentare i loro bambini. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it. Vi ricordo che sul sito www.radio24.it potete sempre riascoltare le nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.